America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, una settimana di grande respiro internazionale per Donald Trump sotto molti punti di vista. Innanzitutto avrà degli incontri alla Casa Bianca con il principe degli Emirati Arabi Uniti, col presidente turco Erdogan, col presidente colombiano Juan Manuel Santos. Insomma, incontri di ampio respiro in preparazione di che cosa? Beh, del suo primo viaggio internazionale, perché finora Donald Trump non si è mosso da Washington, dalla Casa Bianca. Invece a partire la domenica prossima comincerà un viaggio che lo porterà tutta la settimana in giro un po' per il mondo, a Riyadh intanto, in Arabia Saudita, prima tappa, poi a Gerusalemme subito dopo, quindi Medio Oriente, per significare che gli sforzi per la pace, il controllo dell'Iran, la lotta contro l'ISIS, insomma, sono in testa alla sua agenda politica, soprattutto l'agenda politica internazionale. Dopodiché tappa a Roma con una visita bilaterale italiana, ma soprattutto con un incontro col Papa. Sappiamo che ci sono state delle tensioni con Papa Francesco e sapendo quanto Papa Francesco non abbia peli sulla lingua, staremo a vedere come andrà questo incontro, che diventa sicuramente di grandissimo interesse. Da Roma va a Bruxelles e a Bruxelles ci sarà un vertice della NATO e qui ritornerà questa solita domanda di Donald Trump, quella cioè di aumentare il più in fretta possibile le spese militari al tetto del 2% che era stato concordato al vertice NATO del 2014. E io ve l'avevo già detto in altre occasioni, secondo me su questo punto Donald Trump ha ragione, perché questo tipo di spese militari sono in realtà delle spese infrastrutturali nelle comunicazioni, nei trasporti, e potrebbero contribuire allo sviluppo economico e potrebbero essere considerate fuori da quei limiti che ci vengono imposti per evitare sforamenti del disavanzo pubblico. Dopodiché da Bruxelles Donald Trump andrà a Taormina per il G7, dunque un ruolo direi molto importante soprattutto per l'Italia, sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale, per questo debutto internazionale di Donald Trump. Sempre sul piano internazionale, c'è qualche cosa che sta preoccupando molto la Casa Bianca e Washington in particolare. This is at least the 10th ballistic missile launch that North Korea has conducted just since the start of the year, and it comes just a few days into President Moon Jae-in's. Ecco, avete sentito dai notiziari televisivi, domenica mattina la Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico, ha viaggiato per circa 400-450 miglia ed è poi caduto nelle acque tra la Corea e il Giappone. A questo punto l'azione non sembra essere un'azione militare ma un'azione diplomatica, probabilmente si procederà con delle nuove sanzioni. Nel frattempo la Cina, che ha lanciato questo straordinario piano di sviluppo economico, mi ricordo quando il governo cinese preannunciò questa nuova via della seta per poter rilanciare il commercio, per poter creare nuovi sbocchi alla Cina, ebbene questo progetto è diventato una realtà, il piano è partito. Ecco, questo esempio cinese dovrebbe essere per noi un punto di riferimento non secondario, perché la sfida di Pechino nei confronti del resto del mondo avanza, in questo caso lungo le vecchie vie della seta. If there are tapes, the president should turn them over immediately, of course. To destroy them would be a violation of law, but he should turn them over to Congress and to the investigators. Ecco, qui avete sentito invece Chuck Schumer, continua la polemica sul licenziamento di James Comey, il capo dell'FBI. Schumer è intervenuto ieri in uno degli show del mattino sulla NBC a Meet the Press e ha detto che se davvero Donald Trump ha dei nastri, delle conversazioni, di incontri che ha avuto con James Comey, a questo punto deve rilasciargli. Ricordate che Richard Nixon cadde proprio sulla questione di nastri su cui aveva registrato certe sue conversazioni e che poi risultarono fatali, non voleva consegnarli, alla fine fu costretto a rilasciarli, se ne andò. La polemica attorno al caso Comey continua, vi terrò informati nel corso della settimana sugli sviluppi e anche sul fronte del ciberattacco in larga scala della settimana scorsa. Ovviamente ci sono degli sviluppi, non è chiaro, ci saranno gli altri attacchi, molti sono preoccupati, su questo si impone una riflessione importante anche per le aziende italiane che devono imparare a confrontarsi con questo rischio. E qui direi sono un po' tutti colpevoli, governi che continuano a parlare di questo rischio ma poi fanno poco, Microsoft, perché gran parte delle piattaforme girano sui programmi Microsoft, e proprio gli attacchi che ci furono in Inghilterra ci furono perché Microsoft non aveva aggiornato determinati software, e infine le aziende stesse, che devono essere ahead of the game, come si dice, devono essere avanti, devono essere pronte ad aggiornare i loro programmi per evitare il peggio. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!